comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Buonasera, ciao a tutte, a tutti e a tutto. Questa è Radio Lotto tutto l'anno, la radio pirata di Non Una di Meno. E questa sera in diretta ci sono io, Marta, e con me ci sono Emanuela, Vale e Sofia Blu per ora, ma sarà una serata piena di gente. Ciao amiche. Ciao. Ciao ciao. Ciao a tutte e tutti. Allora, questa sera parliamo di un progetto che è stato realizzato in collaborazione tra le Brigate Volontarie per l'Emergenza Ambrosia, con il supporto di Catmi e di Elisa Virgili, a cui mandiamo tutto il nostro amore. Un progetto contro la violenza maschile sulle donne di genere, quindi stasera ve la raccontiamo. Per cominciare direi che possiamo intanto dare i nostri soliti contatti. Cosa dite? Le comunicazioni di servizio all'apertura. E mai voglia Va di bene, darli tu i provo io. contatti? Vai. Provo io con le comunicazioni di servizio, vediamo se me le ricordo tutte. nonunadimeno@gmail.com, la mail di nonunadimeno. Poi abbiamo nonunadimeno.milanoblog.wordpress.com, dove trovate il nostro blog, il contatto Facebook nonunadimeno.milano, Instagram nonunadimeno.milano, Twitter nonunadimeno.mi, il canale Telegram Non una di meno Milano e il gruppo Telegram per la diretta, che è Diretta Radio Lotto tutto l'anno. È un po' complicato, però se scrivete Diretta Radio potrebbe comparirvi. E poi, con grande piacere, perché già un entrare dentro al tema e a raccontarvi un po' il progetto di questa sera, il blog sorveglianza covid-19.org, di cui parleremo anche più avanti, non vi do anticipazioni per il momento. E poi diamo anche il contatto, cosa dite, di Cadmi, o lo Sì, lasciamo per dopo nei. quello magari sì, nel senso che quello a inizio puntata lo diamo sempre, ricordiamo sempre che io resto a casa non è, come dire, un'affermazione rassicurante per tutte e quindi ci teniamo sempre comunque a dare tutti i riferimenti e della rete Dire Contro la Violenza, direcontrolaviolenza.it, il sito dove trovate i contatti dei centri antiviolenza in tutta Italia. Il numero nazionale contro la violenza, che è il 1522, e il numero di telefono della Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che è 02 55 01 55 19. Tutti gli altri numeri utili, come diceva Emma, si trovano su sorellanzacovid19.org, che è questo sito di cui poi parleremo più approfonditamente più avanti. E l'altra cosa invece che adesso vi facciamo partire al volo è lo spottino del nuovo progetto, ormai è anche più tanto nuovo di Non Una di Meno. Raccontiamocela, un numero di telefono per rompere la solitudine, e adesso lo ascoltiamo dalla viva voce delle compagne e torniamo in diretta tra 36 secondi esatti. Ti stai rompendo? Rompi l'isolamento con noi. Chiamaci al 324-0909-917 tutti i martedì dalle 17 alle 19 o scrivici alla mail raccontiamocela@chiocciolaautistiche.org. Lascia il tuo telefono, ti richiameremo il martedì. Siamo Non Una di Meno, non un servizio specialistico. Vogliamo evitare di perdere il senso di comunità o lasciare qualcuna da sola. Raccontiamocela. Parliamo anche spagnolo, portoghese, inglese e francese. Ecco, siamo tornate in diretta. Allora, volevamo subito, subito fare il primo sbrocco della serata, corretto? Sì, partiamo con la dedica, poi andiamo con lo sbrocco, così almeno, come Vai, dire, vai. la mettiamo giù meglio. Sì. Visto che abbiamo iniziato la puntata con un pezzo che si intitola Isha, no? Volevamo dedicarlo a Isha Silvia, la Bentornata. nostra sorella e compagna, e nei nostri cuori un abbraccio grandissimo. Sì, e Bentornata. soprattutto bentornata e soprattutto sciagura a tutte le merde che hanno cercato di rovinare questo ritorno. Rotoleranno teste, Sì, rotoleranno teste. Allora, regine di cuori. vogliamo entrare un pochino nel merito della puntata di questa sera, raccontare un pochino due cose, poi magari mettiamo un altro pezzo di musica in super scialla. Che dite? Assolutamente. Beh, tu stavi dicendo un po', avevi introdotto, no, questo progetto che stiamo portando avanti. E un po' sarebbe bello anche raccontare com'è nato. Sì, molto volentieri. Vale, hai voglia di raccontarlo tu? Ma è stata una cosa molto, beh, ovviamente che parte da riflessioni che portiamo avanti da tempo, però quello che è successo è che alla fine tra varie chiacchiere tra di noi e scambi di ragionamenti ci interrogavamo un po' tutte su come sostenere, no? Anche quello che abbiamo detto varie volte, il grosso lavoro collettivo che stanno facendo le brigate in un momento come questo, dove un po' tutto esce fuori, no? E in un periodo anche all'inizio ci ricordiamo che all'inizio nuove chiamate di persone che si rivolgevano nuove persone che si rivolgevano ai centri antiviolenza non c'erano, prima che poi appunto ci fosse invece la fase del boom, e poi ci interrogavamo anche come sostenere l'operato dei centri antiviolenza in questo periodo, ti ricordi? Mm. Sì. Mi viene in mente una frase che ha detto Raja, che in questo momento non c'è, ma che speriamo che arrivi, no? Che quando abbiamo fatto le prime chiacchierate per organizzare questa cosa, Raja diceva nella primissima fase di lockdown, quella vera, quella dove a Milano c'era un silenzio surreale, camminavi per strada e sentivi le urla uscire dai palazzi. E questa cosa ovviamente, come dire, non poteva che smuovere, no, il desiderio di fare qualcosa. Ci ha smosso la voglia di condividere, anche costruire un pezzo di percorso insieme, perché poi l'altra suggestione era anche come unire sinergie, no, tra le brigate, Ambrosia, soggettività varie, e come poter, come dire, insieme mettere in moto un processo che fosse di supporto, di aiuto al lavoro delle brigate, di conseguenza di supporto e di aiuto alla rete di solidarietà che si sta cercando di costruire in questa città, che ne ha un grandissimo bisogno nel momento in cui, insomma, abbiamo vissuto tutti, no, il periodo della caccia a chiunque mettesse piede fuori di casa, dal runner ai bambini, a qualunque, no? Quindi una dimensione di enfasi della separazione sociale, del tutti contro tutti, no? In qualche modo, che è esattamente l'opposto del lavoro che le brigate invece stanno facendo. Quindi c'è anche un po', tutta, secondo me, una spinta e una volontà di unirsi e di supportarsi a vicenda, insomma, nel provare a dare un messaggio sociale e politico diverso in questa città. Mi viene in mente anche un processo, cioè che comunque è un processo che non finisce subito e va avanti, ma anche uno degli obiettivi di cui ci si è rese conto in corso d'opera era che le brigate potessero essere anche uno spazio safe da certi punti di vista, in un momento in cui c'è una precarietà generale anche nelle relazioni, perché banalmente non sappiamo come approcciarci anche in questa fase 2, no? Alle altre persone, creare uno spazio dove ci fosse la possibilità di sentirsi sicure. E così cosa abbiamo fatto? Perché è un quarto d'ora che ne parliamo, ma forse non abbiamo ancora detto esattamente che cazzo abbiamo fatto. Così creiamo suspense, Marta. Creiamo suspense. A tirare l'interesse. Una suspense che non vi dico. No, e quindi quello che abbiamo fatto sostanzialmente è stato costruire innanzitutto un percorso di formazione per le volontarie e volontari dei centralini, ma anche per le persone che poi attraversavano le strade con i pacchi alimentari, con la spesa, proprio sul tema della violenza maschile contro le donne e di genere, ma non solo, come dire, cercando di allargare la riflessione anche, come dire, a come il patriarcato agisse, no? Ulteriore violenza anche in questa fase, anche soprattutto in questa fase di lockdown, e quindi, come dire, anche rispetto a tutto l'ambito della salute sessuale e riproduttiva, piuttosto che rispetto al lavoro sessuale, piuttosto che rispetto a tutte le istanze delle persone, delle soggettività LGBTQI. E quindi, prima di tutto, un percorso di formazione, autoformazione soprattutto, e poi una campagna, no, comunicativa, che, come diceva Vale, aveva proprio l'obiettivo di far riconoscere le brigate come spazi safe attraverso locandine, messaggi mirati. Tutto questo lo abbiamo costruito grazie al supporto di Cadmi, della Casa delle Donne Maltrattate di Milano e di Elisa Virgili. E adesso, se siete d'accordo, io manderei Cristina di Cadmi, coordinatrice di Cadmi, ci ha mandato un piccolo audio perché non riusciva ad essere in diretta con noi. Ci ha mandato appunto un 3 minuti di vocale dove racconta un pochino cosa ha significato per loro questa esperienza. Lo manderei e poi torniamo in diretta e continuiamo a fare due chiacchiere. Ciao a tutte e a tutti, io sono Cristina, sono la coordinatrice della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. Noi abbiamo partecipato alla formazione destinata alle brigate ed è stata davvero una bellissima esperienza. È una bella esperienza perché da un lato siamo riuscite in qualche modo forse a farci conoscere da tante ragazze, tanti ragazzi che non ci avevano mai incrociate. E siamo anche riuscite a spiegare come lavoriamo e su che cosa basiamo la nostra metodologia. Noi siamo un luogo politico e di questo ovviamente siamo molto fiere e in questo senso ci interessa fare la politica delle relazioni, la politica del territorio. Sono le relazioni in cui noi crediamo sono relazioni di riconoscimento, di scambio di valore, di sostegno, di affiancamento, di veramente valorizzazione. E in questo senso ci è sembrato questo momento, questi vari momenti formativi che abbiamo fatto, davvero momenti preziosissimi, che speriamo anche di poter ripetere, così come speriamo di poter essere ancora utili alle persone che hanno desiderio in questo momento di supportare donne e ragazze che vivono l'esperienza della violenza, dando delle indicazioni precise, magari anche acquisendo una maggiore capacità di intercettare questo tipo di realtà. A questo a noi interessava dare qualche elemento, diciamo, di conoscenza di come funziona la violenza, di quali sono le dinamiche che la caratterizzano, soprattutto anche partire da che cosa genera la violenza e quindi che cosa anche a volte impedisce alle donne e alle ragazze di esporsi e di chiedere aiuto. In questo senso, davvero, questi momenti sono stati bellissimi e noi ci siamo. Ci siamo, fra l'altro, le brigate in questo momento ci stanno anche sostenendo in una delle nostre attività molto importanti perché in questa fase di chiusura le ospiti delle nostre case segrete non sono riuscite ad andare a fare la spesa e quindi le brigate si sono incaricate di farla loro e di supportare quindi le nostre ragazze in questo senso, le nostre ragazze, le nostre ospiti in questo senso. E pubblicamente davvero vi voglio ringraziare tutte e tutti. È un lavoro utilissimo che ci sta tanto sollevando, perché in questo modo noi riusciamo a dedicare molto più tempo alla relazione di supporto, emotivo e anche molto concreto a queste nostre ospiti. Grazie, auguro davvero a tutte un buon lavoro e delle buone giornate e tanta forza. Un abbraccio a tutte e a tutti. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Ouf, s'il se règne, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendue méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part, devient loup, ça part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na-na-na-na-na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na-na-na-na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na-na-na-na-na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na-na-na-na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce es-tu sereine ou fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, seul, seul, je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, na, na, na, na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Seul, seul, seul, je veux être seul. Eccoci, ne abbiamo approfittato per mandare anche un po' di musica nel frattempo. Allora, dicevamo, abbiamo sentito il vocale di Cristina, di Cadmi, che ci ha raccontato sia di questa esperienza che abbiamo avuto insieme, sia anche di un altro progetto, no, che è nato parallelamente come pratica da questa formazione. Non so, Sofia, se hai voglia tu di raccontare un po'. Sì, ciao a tutte e tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare per questo invito che... appunto più si parla di quello che si sta facendo, delle reti di solidarietà che si stanno creando, degli strumenti che stiamo cercando di collettivizzare in questo momento, appunto molto importante. Un'altra attività che è stata avviata, che abbiamo avviato, è appunto quella della spesa solidale per Cadmi, come spiegava prima la compagna. E io vabbè faccio parte della Brigata Ho Chi Minh, che opera in zona 4, e assieme alla Brigata di Milano Sud stiamo appunto facendo queste consegne, queste spese per il Cadmi. L'attività consiste appunto nell'andare al Cadmi, incontrare le ragazze e farci dare appunto delle liste della spesa che poi noi andiamo a fare e poi riportiamo lì, diciamo. Questa cosa per noi è molto importante perché appunto c'è una continuità di pratiche, no? Che noi stiamo mettendo in campo, quindi c'è tutta appunto questa parte di formazioni e di elaborazioni di determinate tematiche che siamo riusciti a fare anche con un sacco di volontari e volontarie che magari appunto non si erano mai approcciati a determinati discorsi. E è molto importante questa cosa perché stiamo vedendo che poi può esserci anche una declinazione pratica, un incontro appunto di conoscerci con queste donne, con queste compagne che portano avanti un certo tipo di discorsi e fare in modo che si crei una rete di solidarietà pratica in continuità con tutti i discorsi che ci facciamo, diciamo. Per noi questa cosa è molto preziosa perché si può direttamente appunto direttamente testare che si possono creare delle connessioni e per noi questa cosa appunto è fondamentale. Adesso la stiamo facendo appunto, stanno facendo queste due date perché siamo più in prossimità proprio con il centro Cadmi, però appunto dato che comunque presumibilmente questa cosa continuerà, perché sappiamo benissimo che la crisi economica e sociale che stiamo vivendo in questo momento non è un'emergenza del qui e ora, ma probabilmente si verrà portata avanti col tempo, speriamo che un po' tutte le brigate appunto possano partecipare a questa attività che appunto ci permette di entrare anche in connessione, in contatto con le cose di cui abbiamo parlato. Senti, per cui è molto importante. Sofia, ne approfitto anche per chiederle un'altra cosa. a te, anche a Vale e come dire poi a tutte le compagne che speriamo riusciranno a connettersi. Lo chiedo a te anche e soprattutto perché la brigata Ho Chi Minh insieme alla Lena Modotti forse sono le due brigate che hanno coinvolto più persone nella formazione, no? Ci sono state veramente tantissime persone formate, ovviamente non solo di queste due brigate ma di tutte. Quindi una delle cose su cui stiamo insieme, no? Anche provando a continuare a ragionare, è cosa l'attività di formazione ha smosso all'interno della brigata, ma anche all'interno degli spazi sociali, politici, occupati o non occupati che attraversiamo quotidianamente, no? Perché una delle cose che ci eravamo dette era proprio che al di là, come dire, del senso pratico, fare questa attività di formazione era già qualcosa di estremamente concreto, no? Abbiamo raggiunto quasi 300 persone con questa formazione, con una veramente un'attività di sensibilizzazione anche, no? Forse era Vale che lo diceva all'inizio, cioè stiamo parlando di 300 persone, la buona parte delle quali forse non si erano neanche mai approcciate a questi temi. Certo, Per cui, certo. ecco, forse una delle cose interessanti, no? È anche quello che questa formazione ha smosso e anche un po', come dire, il processo di soggettivazione politica che speriamo di aver attivato e di poter portare avanti insieme. Sì, magari dico due cose su questo, poi lascio spazio alla Vale. Sicuramente questa formazione ha lanciato degli input molto importanti. Si è potuto constatare proprio nel tempo che tutte determinati punti, determinate tematiche che sono state affrontate in questa formazione poi sono riemerse, no? Nei discorsi e nelle attività quotidiane che facciamo all'interno della brigata, fra i volontari e volontari, tant'è che sono state anche spunto per delle discussioni che ci sono state, no? In questi continui incontri che stiamo facendo con un sacco di nuove ragazze e ragazzi, che tra l'altro magari sono anche ragazze del quartiere che non so, hanno ricevuto un pacco e poi dicono: ok, adesso per fare in modo che non sia una roba solo di ricevere, vogliamo attivarci, ma vogliamo attivarci in un modo che, nel senso che possiamo anche essere sensibili a determinate tematiche, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che questa commissione fra pratiche e analisi, elaborazione di tematiche è molto importante perché appunto dà continuità con quello che stiamo facendo e soprattutto dà lo spazio per elaborare dei temi che magari non vengono affrontati di solito a scuola o in università. Infatti si parla molto e si sogna molto su una possibile didattica alternativa o cioè nel senso ci sono tutte delle tematiche fondamentali che ci servono per affrontare il quotidiano e per affrontare il mondo che ci circonda che non vengono minimamente discusse o studiate negli spazi di formazione. E forse queste attività che stiamo facendo possono essere proprio dei pretesti per imparare un sacco di nuove cose, no? Noi ne stiamo parlando molto, ad esempio, qua, ma io credo che ne stiano parlando anche un sacco di altre brigate, perché pure le brigate che magari appunto altre brigate che hanno partecipato hanno avviato questo discorso internamente sul fatto che queste formazioni hanno lasciato molti punti di riflessione in prospettiva. Vale, se Ma vuoi io, aggiungere. sì, in realtà hai detto molto, tanto fa parte anche dei ragionamenti comuni che abbiamo fatto insieme. E, secondo me il dato importante da sottolineare, oltre alla giusta restituzione che ha fatto Sofia, è che noi spesso ci siamo dette, da questo periodo, da questo momento non vogliamo uscire nello stesso modo. Secondo me questo è un ottimo esempio, pratico. Di cosa significa attivare dei meccanismi che nella normalità che c'era prima e che non ci piaceva, anche se dal punto di vista sanitario ci sentivamo sicuramente almeno non emergeva così tanto la deficienza sanitaria. Il dato è sicuramente che c'è stato un intervento pratico e questo intervento pratico fa sì che appunto ci sia un cambiamento. Perché è un cambiamento, l'ha detto Marta, sempre da ragionamenti nostri, siamo arrivati a tantissime persone, normalmente è molto difficile, è stato possibile scardinare certi meccanismi, limiti, barriere su certi argomenti. Questo ha fatto scattare tante domande, tanta voglia di confronto, tanta voglia di parlare anche di altro collegato a questi temi, e da tutte persone che, diciamo, non sono persone che magari studiano o scambiano opinioni o seguono questa lettura del reale da tanto tempo, per cui è sicuramente un passo verso il non vogliamo che sia come prima, soprattutto da questo punto di vista, e può innescare dei meccanismi virtuosi, cioè può andare ancora più in là di queste 300 persone. Ne abbiamo già avuto prova perché altre persone si sono interessate e stanno chiedendo, per cui questo secondo me è il dato, aver messo giù una base importante rispetto al non deve essere come prima. Sì, questo peraltro, questo progetto ovviamente non nasce dal nulla, no? Per noi, per la maggior parte di noi, si sta esattamente all'interno di, come dire, quella lunga strada che abbiamo cominciato a percorrere insieme, quel famoso 26 novembre del 2016, quando non una di meno ha invaso la marea, di non una di meno ha invaso le strade per la prima volta a Roma, e che ci ha portati alla stesura del piano, che a questo punto ricordiamolo, il piano contro la violenza maschile sulle donne e di genere, di non una di meno, che è scaricabile dal sito di non una di meno, dal blog di non una di meno, e che contiene, no, un po' tutta la riflessione collettiva che in decine, centinaia di assemblee, di tavoli locali e nazionali, un sapere davvero collettivo e condiviso che abbiamo messo insieme nello scrivere questo piano, no? Questo piano che abbiamo presentato nel 2017, per cui ormai tanti anni fa, 3 anni fa, ma che comunque ancora intanto super attuale, perché tutto quello che diciamo, purtroppo, come dire, un po' profezia, un po' consapevolezza, però è ancora molto assolutamente valido. Ma poi io credo anche che questa esperienza che abbiamo fatto insieme sia una di quelle esperienze concrete con cui abbiamo sempre cercato di portare avanti il lavoro di non una di meno, no? Ci siamo dette: abbiamo un piano, ora il piano dobbiamo farlo vivere sui territori. Ecco, questa mi sembra appunto un'esperienza davvero concreta e, come dire, massiva di questo processo, no? Del far vivere il piano contro la violenza maschile sulle donne di genere sui territori. Sì, sono molto d'accordo. In effetti è stata proprio un'esperienza da questo punto di vista che ci ha permesso di, come dire, cominciare, non di cominciare, perché ovviamente negli anni l'abbiamo già fatto, ma in questo tipo di situazione cominciare a confrontarci, a prendere in mano un po' quei pezzi del ragionamento che fanno parte anche del piano contro la violenza di genere, e provare a confrontarsi insieme con persone che a livelli diversi, come diceva prima anche Valentina, si erano già confrontate su questi temi, e da lì è veramente venuto fuori qualcosa di un processo davvero estremamente interessante. Proprio nella modalità e nei termini in cui le persone si sono messe in discussione, hanno espresso la volontà di partecipare, di condividere anche pezzi, come dire, dei propri percorsi personali, pezzi delle esperienze che avevano vissuto con l'attività con le brigate, sia al centralino sia attraverso le consegne. Quindi tutto questo, man mano che siamo andati avanti con gli incontri di formazione che ormai vanno avanti da un mese circa, forse qualcosa di più, il percorso si è anche arricchito, cioè si è nutrito e si è arricchito dello scambio costruito durante questi incontri. E questo, a mio avviso, è già, no, l'attivazione di questo processo di scambio, perché ovviamente l'obiettivo non era quello, come dicevamo anche prima, di fare della formazione tout court, ma di costruire insieme dei percorsi. E già attraverso questi incontri lo abbiamo visto nelle modalità di partecipazione e direzione delle persone. Allora, sentite, proposta mozione d'ordine. Farei sentire il contributo che ci ha mandato poco fa Clara, che intanto ci racconta di un'altra delle brigate che ha, come dire, tra quelle che più hanno collaborato con noi, insomma, con noi, che più hanno seguito il percorso, che è la Brigata Basaglia, e racconta appunto un pochino le suggestioni e cosa ha costruito questo percorso insieme. Poi ci sentiamo un po' di musica, così tiriamo tutte un po' il fiato e poi torniamo in diretta e continuiamo a parlarne. Ciao a tutte, tutti, tutto, sono Clara e faccio parte dell'esperienza delle brigate. Principalmente io dall'inizio di questa esperienza mi sono dedicata principalmente al centralino e al supporto tecnico-organizzativo della Brigata Basaglia, che è una brigata che è nata ad aprile con l'idea di creare uno sportello psicologico telefonico a distanza. Abbiamo raccolto l'iniziativa delle compagne di Ambrosia e delle compagne di Cadmi che hanno fornito una formazione appunto sulla questione del riconoscimento di casi particolari delicati come la violenza di genere e la violenza domestica, a cui hanno partecipato tantissime ragazze e ragazzi. Che fanno parte appunto delle brigate che rispondono al telefono e anche moltissime persone che agiscono sul territorio. Questa iniziativa è partita anche dal fatto che noi facciamo un'attività che entra a contatto con le persone, con i bisogni delle persone e sappiamo benissimo che ha molti bisogni legati alla crisi economica, sono legati anche a tantissimi altri aspetti, ed è per questo che l'iniziativa che è stata lanciata, questo tipo di formazione, è stata veramente arricchente, diciamo, sotto tutti i punti di vista, anche per imparare, tra virgolette, i ragazzi, sia quelli che rispondono, ma quelli che anche agiscono sul territorio, ad avere comunque un minimo di formazione di base su questo argomento. Se nasceranno delle proposte o anche altri tipi di formazioni o dibattiti intorno a questo, ne siamo veramente contenti e contente perché ci ha dato veramente uno spunto molto forte, anche proprio perché in questi 2 mesi siamo stati veramente a contatto con la società e con le problematiche che possono scaturire da una crisi sociale, economica e sanitaria e quindi poi anche tantissimi altri problemi correlati. Quindi volevo ringraziare ancora tutto e buona radio, buon dibattito. Silence soothes me like whispers in my back, as if I couldn't hear. Thought I left ghosts behind, but they just call me near. Doesn't matter, does it? If I know any exit, if I barely forgot, and if God does exist, if I barely forgot, and if God does exist, reach as a fabric through and through, like that gaze they used to. Suicidal thoughts that are still in my head. Give her that awful side smile when I lay in bed. It doesn't matter, does it? If I know any exit, if I believe in God, and if God does exist, if I believe in God, and if God does exist, she's barely feeding, but she'll deny. Rip on the leg, she passes by. And Allora, intanto grazie Clara per averci raccontato l'esperienza della Brigata Basaglia e per aver condiviso le sue riflessioni sul percorso che abbiamo fatto insieme. Invece ora sono entrate in diretta con noi Yasmin e Viola. E Vale, non so se hai voglia tu di introdurle, di raccontare un po'. Vabbè, faccio raccontare sicuramente di più a loro, ma Yasmin e Viola sono due delle studente che hanno creato il progetto di studente per l'emergenza. Non voglio spendere troppe parole io perché preferisco che siano loro a condividere da dove è nata questa idea, cosa fanno nel pratico, quanti studenti, studentu, studentesse hanno coinvolto e anche chi sono loro, se volete un attimo anche brevemente presentarvi e che cosa fate oltre l'emergenza. Quindi lascerei la parola a loro senza rubare spazio. Yasmin e Viola, grazie di essere venute e di darci il vostro contributo. Benvenute. Ciao a tutti, grazie mille. Ciao a tutti e a tutti, vabbè, io appunto sono Yasmin e sia io che Viola appunto facciamo parte di Studenti per l'Emergenza ed è un'iniziativa che abbiamo creato appunto noi studenti per in risposta appunto a questo periodo emergenziale e adesso siamo partiti essendo 20 persone, adesso cioè, abbiamo uno squadrone di 100 studenti, se non di più, che coordiniamo noi stessi e quindi siamo anche molto contenti di questa cosa. Sia io che Viola abbiamo partecipato alla formazione sulla violenza di genere che abbiamo trovato molto interessante, poiché abbiamo anche aperto gli occhi su varie piccolezze che prima tralasciavamo, come molte altre persone, credo. E, come studente per l'emergenza il nostro ruolo è fondamentale anche perché per quanto riguarda appunto questa problematica, poiché presidiando davanti ai supermercati, che in questo periodo è il luogo più comune di rincontro pubblico, siamo a contatto con un sacco di gente e appunto dopo quella bellissima formazione è nata l'idea di diffondere il più possibile questi numeri di aiuto per coloro che stando a casa non si sentono al sicuro attraverso l'attacchinaggio di volantini opuscoli con su scritto tutti i vari numeri o siti di aiuto. Poi vabbè, adesso Viola vi parlerà, lei si occupa di fare i video e di montare anche i video di studentu per l'emergenza e ha fatto anche un video appunto per quanto riguarda questa problematica. Vabbè, faccio parlare lei di questa cosa. Ciao a tutti, io sono Viola, faccio parte anch'io di Studenti per l'Emergenza. E sì, come Yasmin, ho seguito anch'io la conferenza sulla violenza di genere, che ho trovato veramente interessante. E perciò ho deciso di stampare subito i volantini, diffondere il più possibile e cercare di attaccarli in più condomini possibile. Appunto io e altri studenti li abbiamo stampati, ho fatto il video in cui siamo andati in giro per una zona di Milano, zona 3, a appunto attaccare in diversi condomini i volantini con su scritto i numeri essenziali, appunto anche la colletta alimentare e tutti i numeri per la violenza e consulto psicologico che ci sono stati forniti tramite il sito durante appunto la conferenza di genere. E niente, questo. Ma tra di voi, cioè, questa cosa ha attivato subito la volontà di diffondere un po' quello che era stato condiviso durante le formazioni? Esatto. Prima Yasmin ha parlato di cose di cui non ci si rendeva conto, cioè come, senza soffermarsi poi su cosa o in merito, o comunque lo decidete voi se condividerlo, la risposta, cioè c'è scambio, c'è dialogo, ci si interroga, come vi sembra tra tutti questi studenti, che sono molte, che avete coinvolto? Allora, noi abbiamo fatto un'assemblea con tutti gli studenti e le studentesse di questo progetto, e ci è sembrato assolutamente necessario, attraverso il consenso anche di tutti, di fare a nostra volta una formazione a appunto gli studenti con tutto il materiale che appunto ci avete fornito voi, e riprendendo appunto la vostra formazione, proprio in modo che comunque nel momento in cui noi attacchiamo i volantini davanti ai supermercati oppure nei nostri condomini, sappiamo dove indirizzare queste persone e cosa appunto dirgli, come informarle per chiedere aiuto. Quindi è fondamentale che tutti e tutte le studentesse abbiano una formazione al riguardo, proprio per sapere come muoversi in questi casi. Io credo, no, è stato, lo diceva già Emma prima, no? Questa esperienza di autoformazione è stata estremamente interessante anche per tutto quello che ha attivato di rimando, no? Nel senso che poi noi appunto abbiamo costruito questa formazione a partire dalla nostra esperienza, dal sapere che abbiamo costruito all'interno di Non Una di Meno, lavorando con i centri antiviolenza all'interno della nostra collettività. Però appunto una delle cose che sembra banale dirlo, ma che più è stata importante per noi, è stata proprio questo, no? Quello di raccogliere, costruire insieme anche degli strumenti nuovi per ragionare, per portare anche rivendicazioni politiche su quanto abbiamo costruito insieme. E quindi insomma, vabbè, vi volevamo in diretta intanto perché il video è stato molto carino e ci è sembrata davvero, come dire, una dimostrazione concreta che quelle due ore di autoformazione che facciamo insieme poi attivano davvero delle cose e non restano lì circoscritte. Cosa vogliamo fare? Perché ringraziamo noi, cioè. Vabbè, grazie per esserci state, non ci ringraziamo a vicenda. Ringraziamoci a vicenda, possiamo andare avanti così fino a fine della trasmissione. Esatto. No, possiamo forse dare, non lo so, condividere se volete in questo momento, ditemi voi se abbiamo qualcos'altro invece già pronto da mandare, forse anche qualche elemento in più di quello che abbiamo, no, portato e condiviso. Alla fine, come dicevamo all'inizio, stiamo parlando del tutto intorno e dei contenuti o comunque delle idee che hanno attraversato questi momenti un po' meno. Quindi se volete possiamo magari raccontare a chi ci sta ascoltando qualche pezzettino in più sul percorso, giusto per rendere partecipi anche gli altri, diciamo così. Sì. Di quello che abbiamo fatto. Posso leggere le prime 10 righe dell'introduzione del piano contro la violenza maschile di genere? A parte proprio dei contenuti. Sì, perché mi sembra che sia quello da cui siamo partite, no? Allora, la violenza maschile contro le donne è sistemica, attraversa tutti gli ambiti delle nostre vite, si articola, autoalimenta e riverbera senza sosta dalla sfera familiare delle relazioni a quella economica, a quella politica istituzionale, a quella sociale e culturale, nelle sue diverse forme e sfaccettature, come violenza fisica, sessuale e psicologica. Non si tratta dunque di un problema emergenziale né di una questione geograficamente o culturalmente determinata. La violenza è espressione diretta dell'oppressione che risponde al nome di patriarcato, sistema di potere maschile che a livello materiale e simbolico ha permeato la cultura, la politica e le relazioni politiche e private. Oppressione e ineguaglianza di genere non hanno quindi un carattere sporadico o eccezionale, al contrario strutturale. Ecco, questo è un po' quello da cui siamo partite, no? È quello che abbiamo ripetuto, e chi è stata l'affermazione lo può confermare, tipo alla nausea, no? La violenza è strutturale, ci riguarda tutte, tutti e tutto, e nessuno di noi ne è immune. Esatto, è una cosa che almeno per quello che è il pezzo della mia esperienza che posso riportare qua, che ha, come dire, smosso anche molta partecipazione e condivisione, è stato proprio nel tentativo di, ovviamente come primo livello, condividere alcuni termini, alcuni concetti per poter costruire un linguaggio comune e condiviso in modo da potersi effettivamente confrontare. Ma subito dopo, diciamo, questa prima parte di condivisione di termini e strumenti, abbiamo cercato di fare proprio quello che il piano dice e sintetizza in queste prime righe, ovvero quello di andare a cercare a decostruire gli stereotipi nel linguaggio, nella cultura comune, tutti noi viviamo, come dire, assorbiamo, incorporiamo, sia per quanto riguarda che il tema della violenza di genere in generale, cioè che cosa sia la violenza, ma soprattutto rispetto a quello che ci si immagina siano e rappresentino le donne vittime di violenza. Per cui un aspetto sulla quale ci siamo molto concentrati, sulla quale si è creato molto scambio, è stato proprio ragionare intorno a chi siano, no, le donne vittime di violenza, ovvero tutte noi, come la violenza sia trasversale. Abbiamo fatto questo discutendo insieme, attraverso degli esempi anche molto semplici e concreti, per andare a riconoscere effettivamente nella nostra sovrastruttura mentale quegli elementi che effettivamente ci fanno riconoscere che quegli stereotipi sono arrivati anche dentro di noi. Ad esempio, abbiamo condiviso come in un certo momento della nostra vita forse tutte noi abbiamo pensato che la violenza di genere fosse qualcosa che non poteva toccarci davvero da vicino, fosse qualcosa che riguardava comunque sempre le altre, perché noi non saremmo mai potute cadere nelle maglie di un maltrattante, perché noi non siamo, non so, abbiamo studiato oppure abbiamo addirittura abbiamo alle spalle percorsi politici di condivisione, e quindi non potremmo mai, no, riuscire a finire dentro una relazione violenta. E invece a un certo punto, se ci guardiamo intorno e guardiamo dentro noi stessi, ci rendiamo conto che non è così, che in realtà, appunto, come sintetizza benissimo il nostro piano, la violenza è trasversale, riguarda ognuna di noi. Ecco, questo tipo di condivisione e di confronto è stato davvero molto arricchente e ha consentito a tutti quanti, sia noi che in quel momento stavamo portando e condividendo dei contributi, e le altre persone che portavano i loro esempi di vita vissuta ed esperienze in cui gli stereotipi venivano confermati, o dall'altra parte in cui esperienze che mettevano in discussione riuscivano a scardinare in qualche misura questi stereotipi. E questo è stato davvero un processo collettivo e in questo senso anche politico di crescita e di condivisione. Concordo. Sentite, proporrei la solita pausetta per tirare il fiato con un po' di musica e poi torniamo in diretta e ci avviamo a conclusione, direi, a questo punto. E niente, grazie ancora a Yasmin e a Viola, che non so se sono ancora con noi, forse no? Neanche io lo so. Se ne sono andate, però grazie. Ciao Yasmin, ciao Viola. E musica. as the lukewarm hands of the gods came down and gently picked my adrenaline pearls. They placed them in their mouths and rinsed all the fear. Ultima tranche, direi, sono quasi le 8, abbiamo parlato a lungo e andiamo verso la chiusura. Allora, abbiamo ancora un audio di Giulia, non so Sofia se vuoi introdurlo tu. Sì, appunto Giulia accompagna, con cui stiamo facendo appunto tutto questo percorso, anche le spese al Cadmi. Purtroppo non è potuta essere presente durante tutta la trasmissione perché sappiamo benissimo quanti sbattimenti ci sono per queste brigate e che ti tirano via tutta la giornata, a volte anche la sera, però ci ha mandato una preziosa testimonianza che vorremmo condividere con tutte e tutti, dato che appunto anche le compagne della brigata di Milano Sud stanno portando avanti questa spesa per il Cadmi. Quindi se Marta vuoi mandare l'audio. Perfetto, lo mando e torniamo in diretta tra pochissimo. Ciao a tutte, tutti, tutto. Io sono Giulia e faccio anch'io parte delle brigate. Siamo nella brigata di solidarietà popolare di Milano Sud. E, appunto da marzo ci siamo attivati proprio per andare incontro alle esigenze e le necessità delle persone, cercando di raccogliere cibo davanti ai supermercati tramite donazioni personali, e col tempo ci siamo resi conto che era necessario anche intervenire in altro modo, e grazie al Cadmi abbiamo fatto delle formazioni proprio per poter rispondere attraverso i centralini, leggere attraverso i centralini delle situazioni magari di necessità, e essere quindi preparati e preparate a capire la situazione che ci si presentavano davanti. Inoltre ci siamo rese disponibili anche ad andare a fare le spese per il CADMI una volta ogni 15 giorni e diciamo che questo tipo di esperienza ci sta mettendo di fronte al fatto che appunto Milano ha bisogno di una grande rete fatta di persone in connessione fra loro. Noi da tempo che parliamo della creazione di comunità resistenti e in questo caso proprio per questa situazione del tutto particolare abbiamo visto come la nostra idea, il nostro progetto di mettersi in contatto fra le persone, creare relazioni di fiducia, di mutuo soccorso abbia appunto molto, molto senso e molto significato. È molto forte come esperienza, sia attraverso i centralini dove anch'io opero, e parlare con le persone, riuscire a entrare in empatia con loro, visto il grande disagio che vivono in questo momento, e anche renderci conto delle varie sfaccettature che questa situazione ci sta mettendo di fronte, come ad esempio l'aumento della violenza domestica. Tutto il gruppo si è attivato anche da questo punto di vista, si rende conto dell'importanza di parlare e affrontare queste tematiche, queste situazioni e speriamo che nonostante adesso sembra che le misure si inizino ad allentarsi e si spera che si possa riprendere un ritmo di vita più sostenibile. Vediamo comunque che sarà difficile per molte persone poter tornare ad una, diciamo, normalità, anche se appunto forse la normalità è proprio quel tipo di normalità che ci ha portato davanti a tutti questi problemi, ad affrontarli. Appunto vorremmo riuscire a mantenere questo tipo di relazioni sia tra le brigate, vista la grande cooperazione che si è creata all'interno di Milano, sia con le persone con cui ci interfacciamo ogni giorno. Speriamo che questa modalità possa essere vincente per creare una normalità diversa, una quotidianità diversa che veramente metta le persone al primo posto. Credo sia tutto, vi ringrazio per questo piccolo spazio e buona serata a tutte, tutti, tutto. Grazie Giulia, ci dispiace non averti avuta qui con noi, ma come diceva Sofia la fatica è tanta e vuol dire comunque che c'è un lavoro immenso che le brigate fanno quotidianamente. Giulia diceva a chiusura del suo vocale una cosa molto importante, no? Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. Ecco, questa è proprio una delle primissime riflessioni che avevamo già fatto anche in radio con una prima puntata dedicata alle brigate, no? Che forse uno dei primissimi antidoti alla violenza è quello di ripensare le relazioni di cura e, come dire, quello che è stato costruito e messo in piedi in questi 2 mesi e mezzo dalle brigate forse è il primo passo, no? Per ripensare a una cura collettiva svincolata dalla discriminazione di genere, dai ruoli di genere. E niente ragazzi, andiamo verso la chiusura. Ci dicevamo che forse è giunto il momento, l'abbiamo accennato più di una volta, ma di parlare un pochino più diffusamente del sito che abbiamo costruito proprio a partire da questa esperienza di formazione come strumento, che è sorellanzacovid19.org, e che appunto dicevamo raccoglie tutti i contatti e i numeri utili che abbiamo costruito insieme, che abbiamo messo insieme per rispondere a questa emergenza. Sì, esatto, e soprattutto ce lo immaginiamo come strumento, come dire, dinamico che venga implementato attraverso l'esperienza e la pratica di tutti quanti, per cui se avete contatti ulteriori, segnalazioni da inviarci utili, inviatecele ovviamente, che così riusciamo ad implementarlo con il contributo di tutte e tutti. Sì, io l'ultimissima cosa che ci tenevo a dire, poi mi taccio e ci salutiamo e ci baciamo e ci amiamo, è che, forse lo accennavamo all'inizio, questo sito non contiene evidentemente ed ovviamente solo i numeri di telefono strettamente legati al tema della violenza maschile sulle donne di genere, e questo proprio per quello che dicevamo prima, no? Prima di tutto, perché la violenza, come dire, ha solo ed esclusivamente la sua punta dell'iceberg nel femminicidio o nella violenza domestica, ma in verità si nutre di un humus che è fatto di discriminazioni, di maschilismo, di sessismo, di battute, di gender gap, di omofobia, di violenza e discriminazione contro le soggettività LGBTQ, e, come dire, si costruisce anche sulla base di tutto quel controllo agito costantemente e prevalentemente sul corpo delle donne, no? Per cui, proprio per questo all'interno del sito ci sono anche, ad esempio, tutti i numeri di telefono utili e tutte le informazioni utili per interrompere la gravidanza, se non desiderata, perché sappiamo benissimo che in questo momento di lockdown, in questo momento di grave, crisi del sistema sanitario nazionale, la prima cosa che salta è il diritto all'autodeterminazione del corpo della donna. Assolutamente, sempre il primo attacco. Esatto, ma ci sono anche, ad esempio, tutti i contatti e numeri utili per le sex worker, non perché il lavoro sessuale sia di per sé una violenza, anzi, il lavoro sessuale è un lavoro, ma perché, come dire, portatori e portatrici di stigma e in quanto tali ancora più emarginate e emarginati in questo momento di grave crisi. Ecco, questo solo per spiegare, no, che questo sito raccoglie una vasta gamma di numeri utili e spiegare anche perché. Ma sicuramente il sito ha questo merito, no? Di raccogliere un po' magari informazioni che se no devi andare a cercare di qua e di là. È uno strumento molto utile. Sì, lo abbiamo pensato soprattutto per le e i centralinisti delle brigate, no? Così che potessero avere uno strumento concreto sotto mano per dare eventuale risposta a richieste che dovessero ricevere da parte delle persone che chiamano i centralini, ma anche appunto, no? L'abbiamo visto ad esempio, come le studentu abbiano costruito, no? Insieme abbiamo costruito a partire da questi numeri anche delle locandine, dei volantini che possono essere attacchinati per strada e, come dire, occupare lo spazio pubblico. Per cui, insomma, è uno Esatto, strumento di esatto. base rielaborabile. Assolutamente, con l'obiettivo ovviamente non di sostituirsi ai servizi, ma di fare una scelta, no? Una scelta di campo e scegliere le indicazioni rispetto ai temi appunto e le condizioni sociali che più spesso vengono, come dire, messe da parte, vengono negate, per cui non ha ovviamente l'obiettivo di essere esaustivo sul fronte di tutti i bisogni che tutte e tutti possiamo avere, ma l'obiettivo di, come dire, di condivisione di strumenti, come abbiamo detto fino adesso. Sì, va bene, non so, abbiamo delle cose da aggiungere? Io aggiungerei soltanto che questo per noi è un percorso e quindi non come dire, un arrivo. Il percorso lo vogliamo continuare a costruire insieme alle brigate e insieme a tutte le soggettività che avranno voglia di unirsi a noi in questo percorso. Ci stiamo ragionando sopra e stiamo cominciando a pensare al futuro, a un futuro che inizia domani e che non ci riconduce, come abbiamo già detto, alla normalità, perché la normalità non ci piace, rappresenta il problema,

Mine is forever. but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way home. I can't lose another life. Mentira pra não ter demora. Assim demora. Sem expectativa. saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida. Sem expectativa, saturação da vida. Cheia de chega nas estrelas. Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente, ¿a qué toma? Malamente, y yo, que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, cuanto mira, más quiero cruzarlo, va, más se mueve y tambalea. Malamente, así sí, malamente. Da, da. Mira, malamente, ¿a qué toma? Malamente, y yo, malamente, malamente. Pensarte malamente, sí, sí, malamente. Tra, tra. Mira, malamente, ¿a qué toma? Malamente, y yo, malamente, y yo, malamente, ¿a qué toma? Malamente, y yo, malamente. Tra, tra. Mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Llora pasar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, encuentra el amor que está dentro de tu pecho, encuentra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son poniendo todo el tiempo cumbia, porque